Per i 10 ancora accusati di devastazione e saccheggio per Genova 2001 e concludiamo con Firenze. Ciao. Ciao, ciao, come sta Ciao. andando? Raccontaci un po'. Ciao, io sono Andrea dell'Emerson, del centro sociale Next Emerson. Siamo qui dietro lo stadio. Purtroppo ve lo dico senza molto entusiasmo, ma l'abbiamo raccolta la campagna 10% perché da parte nostra, dei compagni e delle compagne di Firenze, perlomeno di alcune componenti della città, tra quelli che a Genova ci sono stati, come me, come molti altri del nostro centro sociale o come altri giovani, il collettivo di cortocircuito con cui abbiamo organizzato la serata, o meglio le iniziative di questi giorni, la nostra solidarietà verso i compagni che stanno rischiando questa condanna bestiale, scandalosa, questa vendetta dello Stato italiano. Tutta la nostra solidarietà e quindi abbiamo voluto raccogliere la campagna. Noi, niente, in questi giorni abbiamo cercato di dare visibilità e risonanza a quello che sta succedendo, che evidentemente appunto è gravissimo e avviene tutto in un mortorio generalizzato, facendo un paio di iniziative ieri in un caffè letterario del centro, facendo un paio di proiezioni, stasera in due posti contemporaneamente, in un bar che è anche una piazza di fatto molto frequentata, si chiama Off Bar, vicino, insomma, nei giardini della Fortezza, e dietro lo stadio abbiamo pensato di fare un drive-in sulla scia di questa esperienza del drive-in che ha un po' animato Firenze in quest'anno. Quindi stiamo dentro le macchine a sentire la diretta, quindi i miei compagni qui già mi fanno i versi perché mi vedono telefonare e mi risentono dentro le macchine. Si farà alcune proiezioni per raccontare di nuovo Genova e raccontare il rovesciamento della realtà che questa terribile sentenza sta facendo e diciamo sta ufficializzando. Insomma, purtroppo l'effetto di Genova negli anni, anche con le tante difficoltà che è inutile nascondersi, che Genova ha creato tra i compagni, dentro il movimento stesso che arrivò a Genova con delle aspettative e è uscita da Genova purtroppo con ben altri orizzonti, si è un po' consumato. Nonostante questo, come ho detto all'inizio, noi la sentiamo, la viviamo anche da un punto di vista emotivo, perché ognuno di noi che in quel 2001, in quei 3 giorni di luglio genovese era a Genova, avrebbe potuto essere tra i compagni accusati e che stanno rischiando questi 10 anni di condanna. È gravissimo, insomma, non so che dirti di più. Se mi vuoi fare delle domande ti rispondo volentieri, se no ti dirò, come dire, per concludere, che purtroppo non siamo delle grandi folle, siamo un po' i compagni e le compagne che gravitano, circuitano nel movimento fiorentino, nelle sue varie espressioni, da collettivi universitari, collettivi studenteschi, i centri sociali, Firenze o dintorni, e siamo qui a ricordare Genova e diciamo in qualche modo a fare il tifo per questi compagni che stanno rischiando questi 100 anni infami di condanna. Pronto, ci sei? Sì. Niente, no, ci piace molto l'espressione fare il tifo, dato che poi siete anche sotto lo stadio, quindi mi sembra abbastanza calzante come espressione. No, io ti volevo ringraziare, tra l'altro. Mi veniva in mente che noi abbiamo fatto qui a Roma, all'entrata della campagna, un'iniziativa che si chiamava Criminalizzazione degli Indesiderati, no? La Sì, costruzione del nemico dal 2001 certo. a oggi. Tra le cose che mi vengono in mente e che forse vi riguarda anche da vicino, ci sono tutte le misure che riguardano i poteri ai sindaci, no? Che hanno progressivamente ampliato, insomma, la forza, il potere che il sindaco può avere di emettere ordinanze anche Ordinate, di certo. urgenza, e mi sembra che Firenze sia stata un po' alla prepista, no? Di questa nuova Ma noi politica. purtroppo, sì, negli anni Firenze, nonostante la sua apparenza, noi ogni volta che ci troviamo a girare per l'Italia capita con i sinceri democratici, meno con i compagni che sono più attenti alle trasformazioni della società e quindi anche delle politiche di ordine pubblico, le legislazioni in materia appunto dei cosiddetti indesiderati, ma capita di sentirsi dire, insomma, che siamo un territorio fortunato. Noi ribadiamo sempre che purtroppo la questione non è mai quella di un governo o dell'altro, ma sono sempre i processi poi che il sistema capitalistico impone nel governo delle società, e dobbiamo dire che l'amministrazione che prima è stata PC, poi è stata PDS, poi è stata DS, poi oggi è PD, su Firenze non si è mai fatta mancare niente da un punto di vista diciamo repressivo o oppressivo. Noi abbiamo avuto l'esperienza del sindaco Graziano Cioni, che poi oggi da un annetto circa presenta un libro che porta il titolo di una scritta che circolava sui muri negli anni del suo mandato a sindaco, che era "Cioni ti odia", proprio perché si interessava in maniera ironica ma anche purtroppo vera l'odio con cui Cioni guardava a tanti settori della popolazione, dai migranti ai giovani che si riunivano o si riuniscono ancora nelle piazze, a chi vive una Firenze che non è quella solo quella del centro vetrina, dove si spendono 10 euro per una birra o 3 per una spuma, come purtroppo mi è successo anche ieri sera. E quindi sì, insomma, il potere dei sindaci attraverso le loro ordinanze qui si è sempre fatto sentire. Ora abbiamo l'esperienza del sindaco Matteo Renzi, del rottamatore, che nello stesso tempo non è da meno, non ci hanno fatto mancare niente, in modo più o meno diretto. Il comune di Firenze è anche tra le parti lese di un processo che vede imputate 86 persone per una stagione di mobilitazione essenzialmente studentesca, e quindi insomma purtroppo ci troviamo a discutere continuamente di repressione, di compagni colpiti, di provvedimenti giudiziari, di multe, di decreti penali di condanna, e sono purtroppo la quotidianità di chi fa movimento in quest'Italia. Che sia comune, che siano province, regioni, che siano le questure o le prefetture, la situazione non è molto diversa, è un terreno sul quale ci continuiamo a confrontare da anni, e le risposte spesso che riusciamo a trovare non sono all'altezza della fase. Non è facile rimandarlo in politica e creare i rapporti di forza e le condizioni necessarie a far sì che questo tipo di politiche repressive non ci colpiscano. Nonostante questo continuiamo a difenderci, continuiamo a provare a tenere aperti degli spazi di agibilità sociale e politica che negli anni ci siamo conquistati, che ovviamente fanno di tutto per chiuderci, ma siamo qui, resistiamo, e anche stasera nel nostro piccolo siamo ancora in piazza con il nostro striscione a dire che Genova non si condanna, a dire che Firenze non sta a guardare ma che partecipe, e che sta dalla parte di chi lotta e non di chi reprime. Grazie, grazie a voi. Buon ascolto, e vabbè, vi rimandiamo un po' di musica, visto che state ascoltando anche da lì, insomma. Grazie mille. Un abbraccio. Ciao. Ciao, hasta sempre. Ciao.